benzinai, grande sogno di moltissimi, per le grandi mazzette l'odore. Lei che sa che è riuscito a domare il futuro, per favore mi gonfia il pallone. Arriva trasportando turiste in costume, mettendo a dura prova la popolazione. Una banda a noleggio in piedini di fuori, è lei che si scervella sull'erogazione. Si luva, si guardi, si fa così, però intanto studasse il motore. Pensi a com'è bello il mondo, grazie a me qui servi. Al combustibile col tizzone.